Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È lunedì e come sempre facciamo, abbiamo il nostro primo appuntamento con l'ADI, con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto quindi con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Allora, torniamo a parlare del famoso tema banche, perché piano piano si sono presentati agli sportelli dell'Adico i consueti, diciamo, problemi legati a, alle vicende di Veneto Banca piuttosto che di Popolare Vicenza, ma avete un caso particolare da raccontare. Sì Francesco, ecco, torniamo sul caso delle banche, già lo annunciavamo l'altra volta perché diciamo nel mare magnum di situazioni che ci sono capitate, che stiamo seguendo, ce n'è una molto delicata e riteniamo molto delicata. Vedremo come andrà a finire, adesso noi la stiamo affrontando di petto, però ecco, va un po' al di là delle disavventure che ci sono state raccontate dagli altri soci, dai tanti altri soci che sono rivolti a noi per la Popolare di Vicenza e per Veneto Banca. Ecco, perché ricordiamo che normalmente queste persone che si sono ritrovati possessori di azioni della banca hanno visto perdere il valore di queste azioni dell'80%, insomma, quindi sì, purtroppo siamo arrivati anche al 90 ormai, anche al 90, quindi insomma si è dilapidato tutto l'investimento. Esatto, assolutamente. Ricorderete tutti gli amici di Blu Radio Veneto che in varie occasioni è stato raccontato come qualche possessore di queste azioni sia, come dire, stato invitato ad acquistarle dalla banca senza specificare né i rischi né anche che il valore di queste azioni si stava già sfaldando, diciamo così. Esatto Francesco, infatti dei tantissimi casi che stiamo seguendo la maggioranza delle persone appunto ha questa situazione, ha acquistato delle azioni però insomma non è stata informata appunto sui rischi, sulle possibili perdite, e noi questo contestiamo sostanzialmente alla banca, un'informazione assolutamente insufficiente e anche degli escamotage insomma per non far capire bene alle persone cosa stesse succedendo. Per quanto riguarda invece la persona in questione, stiamo parlando di un'imprenditrice della zona del Milanese, comunque della provincia di Venezia, e qua la situazione è ben diversa. Perché? Perché la signora si è rivolta alla propria filiale chiedendo un finanziamento di 10.000 euro per un investimento da fare sulla propria attività. La funzionaria, in questo caso, della banca le ha proposto di prendere un finanziamento da 14.000 euro, quindi 4.000 euro in più di quelli richiesti, spiegandole che in questo modo avrebbe avuto dei tassi di interesse più agevolati. L'imprenditrice ha accettato a questo punto la proposta, ha investito i suoi 10.000 euro, poi a un certo punto ha detto vabbè, vado a sfruttare anche gli altri 4.000 che mi hanno proposto appunto a tassi agevolati. Però a questo momento la banca ha cominciato a temporeggiare, ha cominciato a inventare un po' delle scuse, fino a che a un certo punto ha dovuto ammettere che in realtà quei 4.000 euro la signora inconsapevolmente li aveva investiti in azioni, cosa che non aveva assolutamente chiesto. In azioni della banca, e questo succede perché quando ti metti d'accordo, no, per qualche cosa ti dicono va bene, guardi, noi le prepariamo la carta, ti fanno firmare 20-30 fogli con 5-6 firme qua e là, ma non hai minimamente né il tempo di leggerle e neanche la voglia forse. Ecco Francesco, sai, ci si basa anche molto un po' sulla fiducia, sul rapporto che si ha con i funzionari, perché qua stiamo parlando di una signora, di un'imprenditrice che si è rivolta alla sua banca, quindi c'è anche quel rapporto di fiducia. In ogni caso la signora non ha ricevuto nessuna informazione in merito, neanche al momento della sottoscrizione ovviamente del contratto del prestito, nessuno gli ha mai detto che quello era un prestito parzialmente finalizzato all'acquisto di azioni, e quindi è assurdo pensare che la signora solo perché non ha letto tutto è in colpa. La signora ha parlato, ha chiesto un prestito, gli è stato proposto invece che 10.000, 14.000 e basta, tutto qua, non si è mai parlato di azioni. Per questo la signora, oltre a rivolgersi a noi, tramite noi andremo a richiedere chiaramente la restituzione dell'intero importo, questo mi sembra ovvio, e chiaramente anche un risarcimento, comunque l'imprenditrice si rivolgerà anche all'autorità giudiziaria. noi, Francesco, tu sai che siamo sempre attenti, non usiamo mai termini forti, quindi non useremo neanche in questo momento il termine truffa, però insomma il comportamento è totalmente illegittimo, un comportamento adottato dalla banca. Molto più illegittimo, ancora più illegittimo dei comportamenti che rileviamo negli altri casi, per i quali comunque il comportamento illegittimo c'è comunque. In questo caso, ripeto, siamo sulla scia di un di qualcosa di più, di qualcosa di più grave. Certo, cosa conviene fare quindi d'ora in poi se vi capita di dover sottoscrivere qualche cosa anche con la banca, anche se è la banca che vi presta dei soldi? Secondo me dovrebbe essere così: uno si fa dare l'intero malloppo di carte e poi se lo legge e si fa magari aiutare da qualcuno che ne capisce qualcosa di più prima di firmare, perché a questo punto questo è quello che si dovrebbe sempre fare. Io credo una cosa, Francesco, credo che le esperienze ben raccontate comunque dai mass media con le banche avute in Veneto, ma come sappiamo benissimo anche il caso di Banca Etruria, che è emerso con forza per altri motivi più politici. Comunque io credo, spero che comunque almeno i risparmiatori si rendano conto che di fronte quando si trova di fronte a tutti questi tipi di strumenti bisogna essere attentissimi. Tendenzialmente bisognerebbe essere anche un po' esperti. Se non si è esperti, come dici te, tu, meglio prendersi le carte prima di firmarle e fare leggere a una persona esperta, perché è brutto trovarsi con un investimento ridotto del 90% oggettivamente. Può diventare un dramma. Diventa un dramma in tanti casi. Assolutamente. Anche gli uffici dell'ADICO sono disponibili per aiutare in questo caso. www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito che potete andare a vedere, dove trovate ragguagli e dettagli e vari anche contatti per sentire l'ADICO. Io ringrazio te, Gianluca, per averci raccontato questa vicenda. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.